ritroviamo tra poco con 140 caratteri per parlare di cinema e musica. 140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Ritorniamo insieme con gli incontri, gli eventi, i protagonisti di una settimana di spettacoli. Li abbiamo seguiti tutti in tempo reale via Twitter, giorno per giorno, tra conferenze e presentazioni stampa. Parliamo di cinema. Cinema Mexico, Milano. Il titolo è dolce, ma il tema difficile. Nel cinema de sé più famoso d'Italia, Male di miele, di Marco Pozzi, un film che parla di anoressia. L'idea di Male di miele è nata sviluppando un progetto di documentario su quattro adolescenti che io ho fatto proprio come lavoro di studio, e ho capito che mi interessava non solo teoricamente ma praticamente raccontare, mettere la macchina da presa su quella che cinematograficamente viene definita l'età inquieta, e a me l'inquietudine interessa molto perché sono ancora inquieto nonostante la mia età, e a quel punto ho deciso di provare a lavorare su un progetto che avesse al centro un adolescente. Da lì al filtro dell'anoressia, della malattia, per raccontare anche una storia ambientata in un contesto borghese, milanese, mi è sembrato una cosa molto molto centrata, e con Paola Rota abbiamo sviluppato, la sceneggiatrice che ha scritto con me, abbiamo sviluppato l'idea, il soggetto, che poi attraverso una serie di incontri, di studi in comunità che si occupano di terapie per disturbi, per chi soffre di disturbi alimentari, e la cosiddetta dispercezione corporea, per cui anoressia, bulimia e tutto quello che rientra anche in mezzo a queste due malattie, abbiamo iniziato a stendere la scaletta, a lavorare sulla sceneggiatura, e poi c'è stato l'incontro con i blog, i siti ProAna, ProMia. Lì è stato un viaggio veramente all'inferno, con anche grossi dubbi se in che misura utilizzarli all'interno del film. Io mi sono assunto la decisione, mi sono assunto il rischio, perché l'avrei considerato da farisei fare un film oggi su questo tipo di malattia, su un adolescente che si ammala di anoressia, e non metterci la componente della comunicazione digitale. Tu hai utilizzato il termine rischio, e di rischi ce n'è anche dal punto di vista delle scelte visive e di quello che devi, puoi e decidi di mostrare. Sì, io ho deciso da subito che il film si dovesse tenere lontano da qualsiasi compiacimento voyeuristico, per cui non è un film che racconta la scarnificazione del corpo, ma è un film che invece prova a raccontare la dimensione mentale della malattia. Sara, interpretata in modo meraviglioso, commovente a volte per intensità, da Benedetta Gargari, prende per mano lo spettatore, queste erano le mie intenzioni, e poi mi pare che sia successo così, e lo porta dentro questa dimensione, cerca di far vedere allo spettatore con i suoi occhi cosa succede. Io racconto nel film quella che è la fase iniziale della malattia, che clinicamente viene chiamata proprio della luna di miele. Da lì anche il titolo del film, perché non ho voluto arrivare alla fase terminale della malattia, non ho voluto metterci il melò, lei che muore e tutto il resto, le cure impossibili. Mi sono fermato prima, ho cercato di raccontare il momento in cui nasce, si sviluppa, come questo male dolce, liquido, fluido, appunto come il miele, ti si insinua dentro e in qualche modo scardina il tuo sistema. Parole dintorni, ufficio stampa, Milano. C'è in giro tanta voglia di anni 80, di anni spensierati. Li canta in Elettro 80 Fabio Milella, recordman di click su YouTube. Che fico, sognare di avere un motoscafo che corre sul mare e in tasca i pantaloni. Un po' di milioni da spendere in gelati, patatine, popcorn e noccioline, qualche fico. In questo periodo storico si sente il bisogno di qualcosa che faccia divertire, qualcosa che faccia pensare poco a tutto quello che oggi purtroppo la crisi, il mondo ci porta ogni giorno agli occhi e alle nostre orecchie. Quindi qualcosa di divertente, qualcosa di live, qualcosa di frizzante, qualcosa che ci faccia ballare, secondo noi, secondo me, è come questo disco, è qualcosa che magari può tornare utile a chi anche solo per mezz'ora vuole ascoltare le canzoni che ci sono nel disco. Come le hai scelte? Le ho scelte pensando a tutte quelle canzoni che potevano essere riarrangiate in chiave moderna, elettronica, con la cassa in quattro, dance quasi. Poi abbiamo deciso di fare questo disco con tutte canzoni degli anni 80, le più forti. Abbiamo detto, se dobbiamo fare una cosa facciamola fino in fondo, sporca tra virgolette, e quindi mettiamo tutti quei brani che sono stati proprio il leitmotiv degli anni 80 in Italia, che ancora tutt'oggi vengono suonati. Vorrei sembrare per te un bambino e camminare con te per mano. Vorrei sedere dietro quel banco e tu, maestra, mi parlerai. Mi insegna pure come si deve una donna amare. Regina, tu comanda pure, c'è già la musica per sognare. Uscito da pochi giorni, già al centro di un caso e di una polemica. Cos'è successo? Dici la verità sulle visualizzazioni del video, che ha battuto tutti i record e qualcuno ha detto qui qualcuno ha barato. Sì, vi spiego la verità, fermo restando che io faccio l'artista, che questa è la cosa principale, più importante. È semplicissimo, nel senso che c'è stata una i miei produttori hanno deciso di fare una campagna di web marketing, che è una cosa del tutto normale, una semplice campagna di web marketing, nella quale in America, quindi con un'agenzia americana, che al pari, dico io, di comprare dei banner pubblicitari e metterli su Google, che ho dovuto pure proprietaria di YouTube, se non vado errato, e niente, di qui l'idea strategica e diabolica del mio produttore Riccardo, quindi di creare questo rumore, perché evidentemente in Italia per fare notizia bisogna creare rumore. Quindi questa idea strategica di creare rumore su questa notizia qui, volutamente abbiamo lasciato le statistiche aperte di YouTube, che voglio dire, evidentemente se avessimo fatto qualcosa di strano o di brutto avremmo chiuso, perché tu sai benissimo che si possono chiudere le statistiche dal pannello di controllo, ed è stato un gioco divertente, tanto quanto è divertente poi il disco, che non è sicuramente un disco cantautorale, a chi scoprisse prima, insomma, la bufala, perché voglio dire, fermo restando che questo è importante, le visualizzazioni sono reali. La cosa, il messaggio che volevamo trasmettere era quello di dire che ad oggi è molto più importante che le cose vengano scelte col cuore piuttosto che con i numeri. Che cosa conta se un brano, un video ha 100, 10, 1000, 1 milione di visualizzazioni? L'estate sta finendo e un anno se ne va. Sto diventando grande, lo sai che non mi va. In spiaggia di ombrelloni non ce ne sono più, è il solito rituale, ma ora manchi tu. Tu sei del 78, però quando queste canzoni sono uscite, molte di queste canzoni eri veramente piccolino, ma hai dei ricordi tuoi da bambino? Ho dei ricordi miei e c'è un video che mi ritrae proprio a cantare L'estate sta finendo. Un video simpatico che ritrae me e mio fratello, ed è stato emozionante riscoprirlo dopo tanti anni, dopo aver finito il disco. Quello che abbiamo vissuto poi rimane dentro di noi e in qualche maniera poi ritorna sempre. È tempo che i gabbiani arrivino in città. L'estate sta finendo, lo sai che non mi va. Io sono ancora solo, non è una novità. Tu hai già chi ti consola, a me chi penserà. È